Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Ah, t'ho beccato, eh? Ora nonna. Eh? Ora nonna. Ma che sta a dire? È morta stanotte, è morta. Guarda, lascia perdere, nonna, morta di mortacci. Tua con me non attacca. Buona, Mandrà, è morta per davvero. Lo senti? È morta. Pora nonna, la stanno a pregare. Non mi fido, voglio vedere. Pora nonna, è andata lassù, mi ha lasciato. Anche questi signori si sono resi conto che non era il caso davanti alla disgrazia. Erano venuti perché ci abbiamo dei conti in sospeso. Ma non ci sono debiti che tengono. Quando si paga il debito al signore. Avomà, c'hai 10 giorni di tempo. Grazie al vostro buon cuore. Erventresca. Mandraghe, piacere. Belli capelli. Coraggio, Mandraghe. Il ruscio. Mandraghe, è la vita. Mandraghe. Avomà. E io non so che dite. Niente, niente, che me devi dire? Anche se tu lo dicessi. No, niente. Che tu lo dica a fare? Poi che dire? E questi momenti se solo. No, è che per me nonna era come la mamma. E quando te muore mamma, so cazzi amari, Mandrà. E io pure sapessi ciò. Così ci eravamo lasciati al fine della passata settimana e mi ero ripromesso di non tornare mai più, perlomeno non tornare mai più in diretta, iniziare con la sfilza delle repliche. Poi non sarebbe stato per tanto tempo perché dalla prossima settimana inizia un nuovo programma, però mi sono ricordato che non vi avevo salutati e quindi, colto e punto da nostalgia, questa mattina sono tornato nuovamente qui in diretta, quindi preparatevi all'800240024 che io voglio continuare accanito su questo tema del fatto che in Italia nessuno paga più i debiti. Non esiste più il senso di vergogna, il senso di disperazione per il fatto che si debbano onorare dei debiti. Sì, ci sono delle persone che, ahimè, molte volte compiono gesti estremi perché strozzati appunto dalle impellenze economiche, sono dei casi tristissimi, però la maggior parte degli italiani, per questa perlomeno è una sensazione diffusa che io condivido, hanno ormai l'idea generale che i debiti non debbano essere pagati, che i soldi vanno e vengono, i soldi girano, che insomma nessuno sia poi così spinto da una sorta di imperio interiore a pagare i propri debiti. Mentre io accarezzavo questo pensiero, il destino ha voluto che incontrassi una mia collega, una collega che ho incontrato in uno di quei corsi che si fanno per avere i crediti dei giornalisti, e era presa da un singhiozzo, da un pianto, da un singulto di disperazione, perché tempo fa ella era fra le persone che si meritarono con molto periglio e molto affaticamento un libro infame. Il libro infame le fu inviato, ma tornò indietro. Una sorta di atroce scherzo del destino, tornò indietro. E io, spietato, crudele e cinico, la successiva elargizione dei libri infami lo detti a un'altra persona, leggendo la sua dedica. E lei, questa sorta di affronto, non volle mandarlo giù, tanto che io la convocai questa mattina qui alla radio. Dico: ti do un libro infame, anzi due libri infami avrai a seguito di questa tua importante e addolorata reazione per il fatto di non averlo avuto. E ho fatto una scoperta. Intanto la saluto. Deborah Serrao, buongiorno. Buongiorno Gianluca, grazie per avermi invitata. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Ti invitai soltanto per darti un libro infame, ma il destino ha voluto che tu fossi il tassello che mi mancava per comprendere alcune cose sul tema della trasmissione di venerdì. Esatto. Anche perché ho capito, tu giornalista disoccupata, esatto, non fai più la giornalista perché non trovi dove farlo, da qualche anno fai un altro lavoro, ti occupi di recupero crediti. Esatto, ho dovuto imparare questo mestiere, il mestiere del recupero crediti, che non è poi sostanzialmente quello che abbiamo sentito da... Beh, questa febbre da cavallo, è uno scherzo. E l'esattore esterno, quella è la figura dell'esattore. Infatti esterno. Infatti erano due uomini molto... molto prestanti fisicamente, piuttosto brutali, che andano lì per riempirlo di botte, esatto, se non pagavano. Io mi occupo della fase un po' più leggera, quella del recupero stragiudiziale del credito bancario e finanziario, quindi mi limito a chiamare il debitore in casa. Esattamente, quindi, come le signorine del call center, ad essere molto gentile. Sì, anche se il recupero crediti non è il call center, no, lo so, esattamente. No, ma come immagino che quando arriva a casa con la telefonata, io l'ultima cosa che ho inventato l'altro giorno con l'ennesima signorina che mi chiama dall'Albania, dalla Romania, da qualche stato dell'est e chiede: è casa del dottor Gianluca Nicoletti? Io dico: stavolta ho finto di essere mio fratello, dicendo che ero morto, piangendo. E nonostante che io fossi un fratello in lutto per il fratello morto, ho detto: ma perché avevamo un'occasione, una grande offerta, e ha avuto il coraggio di dirmi lo stesso l'offerta. Le hai fatto una promozione, insomma. Sì, praticamente sì. Praticamente sì, sì, però sono due cose differenti, anche se la tecnica psicologica sostanzialmente è quella, ovvero se si chiama un debitore che dall'altra parte magari ti dice che è all'ospedale, esiste un identikit. Ti capita spesso che qualcuno è all'ospedale? Capita spessissimo in Italia, capita che qualcuno sia all'ospedale, che qualcuno sia al pronto soccorso, che si è sentito male e chiede di essere richiamato dopo due minuti e poi il telefono ce l'ho spento. Allora fermati un attimo, adesso 800 24 00 24, chiedo agli ascoltatori quello che deve essere oggi il loro contributo. Avete mai avuto voi occasione o modo di inventarvi scuse perché non volevate pagare i vostri debiti? Oppure, al contrario, avete dei vostri debitori che si inventano le scuse più strampalate? O se voi siete proprio nel ramo di recupero crediti, come appunto la collega Deborah, che si è reinventata nel giro degli ultimi anni un mestiere perché non poteva più fare la giornalista, beh, quali sono le persone e le tecniche che vi trovate a dover fronteggiare? 800 24 00 24. Buongiorno, sono Giovanni, io da circa un anno lavoro nel settore del recupero dei crediti, sono un esattore di crediti. Non è un lavoro che amo, mi sono ritrovato a fare questo lavoro per necessità. Ogni giorno io la mattina mi vesto, esco di casa e incontro delle persone che per un motivo o per un altro si trovano in difficoltà. Questo non è esattamente un collega di Deborah, è un esattore, una persona che ci chiamò qualche anno fa e ci raccontò la sua storia, però vorrei capire se è cambiata la tipologia nel giro del tempo. Qual è la differenza fra te e la persona che poi brutalmente va a bussare a casa e dice a ridarceli i soldi? No, esiste, intanto è una cosa che assolutamente non si deve fare, non si può fare qua nel rispetto, se la società di recupero crediti è seria e lavora in maniera legale, rispettando tutti i canoni, è una cosa che non si può fare. La differenza è che io chiamo il debitore e lo invito, gli do una spiegazione, cioè lo aiuto a capire come lui può recuperare, può rientrare del suo debito. E qui ovviamente la fase un po' come, è un la, po' più come, soft. Come la Merkel con la Grecia, sta cercando di far esatto, capire. Esatto, esatto. L'esempio è lampante, ti do 87 miliardi, tu me li restituisci magari in 10 anni, 20 anni, 30 anni con un botto di interessi. Si fa come sta facendo la Grecia, dice ma facci lo sconto del 30-40%. Esatto, quindi una proposta transattiva, esatto, io non riesco più ad onorare il mio debito e quindi di conseguenza c'è una sorta di proposta transattiva. Ok, ti restituisco, il debitore ti restituisce il suo debito con uno, tra virgolette, sconto, questa è una frase che non si utilizza mai, un saldo e stralcio del 20, 30, 40 o 50%. E qual è il termine tecnico di dire lo sconto? Saldo e stralcio. Quindi questi non te li do più, ci accontenta. Questi 10.000 non te li do più, te ne do 5.000. Quindi il debitore fa la sua proposta transattiva che poi deve ovviamente essere accettata dalla committente, che sia la banca, che sia la finanziaria, non dalla società del recupero. Cioè deve capire se è meglio pochi maledetti subito o mai. Esatto, esatto. Perché in realtà in Italia se non si pagano i debiti non succede nulla. Il problema dell'Italia, e che poi questo insomma lo vogliamo dire, perché gli italiani non pagano? Perché in realtà poi alla fine non gli succede nulla. Ecco perché poi si arriva alla fase della minaccia, tra virgolette, che comunque non deve essere utilizzata, ci mancherebbe, e quindi un po' della paura, dell'esasperazione. Poi se vogliamo parlare di argomenti ancora un po' più forti, abbiamo visto insomma sulle cronache ultimamente, la Camorra ha utilizzato molto questo metodo estorsivo. Quando il credito finisce nelle mani della malavita organizzata, ormai non parliamo più di qualcosa contro o nell'ambito della legalità, diventa malaffare puro. Io sono in credito con due fratelli, mi scrive un ascoltatore, che fatica al recupero dei debiti tra parenti. Certo, perché fra parenti non è che ci si rivolge a un'agenzia di recupero crediti. Beh no, assolutamente no. Entrano in gioco le zie, le nonne, le mamme, è un bel casino. Simone, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Io innanzitutto buongiorno, volevo farvi la mia piccola esperienza. Io sono un piccolo artigiano della provincia di Milano e quindi Ormai sto provando sulla mia pelle che i debiti non li paga più nessuno, non li paga più nessuno, ma mi creda, io entro in appartamenti tutti i giorni, io faccio l'antennista, entro in appartamenti tutti i giorni e raramente esco col 100% del mio compenso in tasca. Tante volte la persona cerca di prendere tempo, poi di non risponderti più al telefono quando ti deve dare i soldi, però attenzione, io capisco lo stato di crisi, però la gente non è più disposta a fare i piccoli sacrifici. Tu immagino che vedi un televisore da 5-6 mila euro. Io installo televisori, il plasma, l'LCD nuovo di ultima generazione, la gente si indebita, quindi purtroppo c'è questa forma di pagare le cose a rate, si indebitano, lo prendono, poi a me che glielo installo, che magari gli cambio l'antenna, che mi devono dare 200-300 euro, credetemi, io sono un piccolo artigiano, si mettono a piangere, far la somma di tutti questi piccoli soldi che mi deve in giro la gente non paga più. Ecco, come fai tu a riprenderli però? Fermo. Conferma? Confermo. Guardi che il signore dice esattamente la verità. Mi scusi, attenda un secondo, Deborah, per favore. Sì. Allora, dice, è una parte della verità, perché l'italiano medio oggi non rinuncia al televisore di un certo tipo, non rinuncia al cellulare di un certo tipo, garantisco che poi non paga le rate, anche che siano di 20 euro, 30 euro. Poi magari arriva l'antennista che deve sistemargli il televisore e non viene pagato. Ma al tuo livello diciamo di attenzione professionale, a cosa non rinunciano? A comprarsi un appartamento? Alla macchina. La macchina oggi è uno status symbol. Io ovviamente, tu vai a recuperare crediti per gente che non paga le macchine. Che non paga le macchine, macchine che costano anche parecchio, e ci sono tantissime persone che non pagano le rate. Elena, buongiorno. Ah, buongiorno Nicoletti. Ma certo, è la mentalità del tutto e subito, è il non fare mai il passo lungo come la gamba, appunto. È questa mentalità che è nefasta, direi. Anche perché è vero che si pagava rate anche una volta, io ho 71 anni, si pagava rate per esempio con il libretto, gli alimentari, e si andava dal negoziante, si aveva il proprio biglietto, segnava il conto, ma si pagava a fine mese. Segno, beh, oggi nessun negoziante più segna, perlomeno, difficile. No, intendo dire che il pagare a rate non è una novità, soltanto che adesso è fagocitato dal volere tutto e anche soprattutto il superfluo. Sì, ma lei riesce a dormire tranquilla se deve dare dei soldi a qualcuno, visto che le rivolgo una domanda generazionale. Parla di figli in questo caso. No, di lei, se lei ha un debito con qualcuno, non deve correre il giorno dopo. Cioè, ecco, vede, questo io per esempio ho sta brutta testa che non riesco a tenermi i debiti. Lo so, infatti ci trattano da stupidi, no? Che non riusciamo. Da cretina. La gente ci aspetta che fetta c'è. Fermo un attimo, diamo un attimo l'informazione del traffico, poi riprendiamo. Vedo che molta gente chiama. Io mi ero fatto l'idea che una giornata come questa stiano tutti pensando ad altre cose. Invece, quando si parla di soldi che non vengono restituiti, improvvisamente viene voglia di dire la propria. Meglio così, a tra poco. Melog. Cronache meridiane. Sei uno statale e con quel ridicolo aumento non riesci comunque ad arrivare a fine mese? Già. Hai un figlio all'asilo che ancora non ha il cellulare. All'asilo il cellulare? Sei un pensionato e vuoi regalarti un amante giovane e disinibita? Ora puoi. Chiedi un prestito a Strozus. Sì. Strozus è il tuo prestito di fiducia, il tuo prestito amico. Finanziamenti facilissimi fino a 10 milioni di euro in 3 minuti. Sì, ma come funziona? È giusto il tempo di contarli. Non ti chiediamo garanzie. Ci basta sapere come ti chiami e dove vanno a scuola i tuoi bambini. Credo. Con Strozus prendi ora e restituisci dopo un anno con solo il 190 per 1000 interessi. No, scusi, non ho capito. Che se ci pensi è poco più di un caffè al minuto. Ma come è? Niente. Lo so. 800 24 00 24. Oggi parliamo di quelli che non pagano, di quelli che non vogliono pagare, di quelli che sono convinti che tanto non conviene pagare, perché nessuno ti farà mai qualcosa di estremo, di drastico, di penalmente rilevante se non paghi. Quindi chi paga è stupido, e quindi ci sono persone che devono nella loro scelta professionale, come Deborah, la collega Deborah Serrau, che è qui in studio con me, fare recupero crediti. Mi domando, ma Adesso non vorrei che questa fosse una domanda che possa subito essere presa come una sorta di insulto di genere. Non è meglio un uomo autorevole, burbero, un po' cattivello per chiamare, oppure puoi farlo tranquillamente, perché davanti troverai delle persone che useranno ogni arma per smontare la tua richiesta. Beh, lì dipende, ovviamente. No, devi essere molto, molto deciso. Fermo, deciso, perché d'altronde i debiti si devono pagare, e quindi glielo devi in qualche maniera far capire. Okay, ma se sono convinto che se anche non pago non mi succede niente, come fai a convincermi? Come faccio a convincerti? Ti faccio un lavoro di tipo psicologico. Cioè, perché, mi massacri perché non le è palle giusto, finché... Ma certo, non è giusto, non è giusto che tu compri, a meno che tu non ti sia trovato realmente in difficoltà, hai perso il lavoro. Io quando ho perso il lavoro, sono stata licenziata, avevo un mutuo, e ce l'ho ancora, di 1.000 euro al mese. Sono andata in banca, ho chiesto alla banca, ma se io non dovessi più riuscire a pagare, mi tolgono del la mutuo, casa, mi tolgono la casa. Mi ha detto, signora, non è possibile, lei è la prima persona che viene qua. Nessuno si pone e nessuno si pone questo problema. Potessi farle vedere la sfilza, l'elenco di italiani che non pagano le rate del mutuo. Gli italiani che occupano case che non sono le allora, loro. Quindi, per questo. Allora, l'italiano medio è abituato a non pagare. Questo lo ribadisco, ho avuto modo di poterlo constatare. Cioè, il principio è inverso. Anni. Tu devi imporre una regola capire. Di vita che non esiste. Gli italiani devono capire che comunque se comprano il televisore, se richiedono un finanziamento, lo devono pagare, a meno che realmente non si trovino in difficoltà. Però, insomma. Dimmi la scusa più frequente. Ah, sono tutti all'ospedale. Dici diciamo perché che non tutti regione che vai, debitore che trovi. Risponde la moglie, dice mio marito. Sostanzialmente sì, sono tutti al sud, fondamentalmente regione Campania. Io amo i campani, però sono molto ammalati. Sono molto ammalati, diciamo così, sì. E nel caso tu continui a richiamare finché non esatto, poi segni ci sono anche quelli che muoiono e resuscitano. Come vogliono che suscita? Sì, ci sono anche quelli. In realtà tu chiami, magari risponde la moglie, come dici tu, il debitore e il marito, metti che la moglie magari è garante del finanziamento, diciamo, mio marito purtroppo è deceduto. Io lo dico quindi alle signorine del call center, infatti. Gli devi chiedere il certificato di morte che non ti arriverà mai, poi magari chiami la volta successiva, risponde lui perché sono talmente abituati a sentire era morte telefonate. Apparente. Non era morte apparente. Ascoltiamo qualche telefonata, 800 24 0024. Un argomento che solletica. Gaetano, buongiorno. Sì, buongiorno. Io faccio l'autotrasportatore. A volte vado a ritirare dei mezzi di lavoro, delle vetture, diciamo, che vengono sequestrate o perché non pagano il leasing. O e quindi? Perché... diciamo che a volte ho trovato persone che mi hanno dato degli appuntamenti e poi non si sono più presentati, o a volte mi portano dei mezzi che effettivamente non sono più quelli che diciamo avevano acquistato, perché li distruggono apposta per sfregio. Esatto, cioè gli mettono la sabbia nel motore. O se c'hanno i cerchi in lega non trovo più i cerchi in lega, perché io vado lì con un verbale dove mi dicono che la macchina ha tutte queste optional e poi non le vado a trovare. Quindi più. Si sentono come lesi nel loro diritto di tenersi la macchina senza pagarla. Quindi esattamente. Questo lo fanno in America. In America cosa fanno? Questo fanno la situazione che ha descritto il signore la fanno si verifica in America. Comprano le automobili e le ridanno a pezzi. Esatto. Ma è terribile questa cosa. Emiliano. In Italia no. Emiliano, buongiorno. Gianluca, ciao, buongiorno. Ho fatto un viaggio in Singapore, sono tornato 3.500 euro di bolletta del telefonino. Non ti so spiegare il perché. No, spiegamelo, voglio capire come mai 3.500. Avevo imposto un blocco sul telefonino tramite il sito di Tre che diceva limita il tuo traffico internet in territori internazionali, e invece loro mi dicevano che l'internazionalità non è l'intercontinentale. Forse limita la comunità europea piuttosto che... Però internazionale è fuori dalla nazione. E questo bel paccone di soldi come glieli ridarai? No, non glielo ridarò. Non pagherà, vedi? No, non pago, non ho pagato, cosa è successo? Ci hai messo l'avvocato? No, non ci ho messo l'avvocato. Per un anno e mezzo, mi hanno chiamato diverse agenzie di recupero crediti, non la Tre ovviamente. Forse anche Deborah ti ha chiamato. No, io non mi occupo di commerciale, solo di bancario. Però la cosa che volevo capire è che non è stata un'agenzia. Io credo, e la signora me lo può spiegare forse, il credito è stato, viene continuamente rivenduto. Allora aspetti, precisiamo questo. Allora, il recupero crediti è stragiudiziale e giudiziale. Stragiudiziale significa che, e cioè la fase del lavoro che svolgo ci io, provo prima di andare, significa che la committente, la banca o la finanziaria firma un contratto con la società di recupero crediti, ok, la quale si occupa poi di provvedere a far pagare a recuperare il credito. Almeno ci prova. Quando vengono ceduti, c'è grande confusione da questo punto di vista, quando la banca, la committente in generale, ha provato un anno, due anni, non tre anni, il più. Tempo che è, non ce la fa più, mette in perdita nel bilancio il suo debito insieme a quello di tante altre persone e lo rivende a pacchetti, ok? Ognuno se ne prende un pezzo e ci prova in base esatto. a quello che ha pagato. Ci prova, ma non ci è riuscito per il mio caso. Il credito. Però lei sarà iscritto comunque a breve anche al CRIF, attenzione, perché non pensiate che non pagare, che non pagare più la bolletta. No, non può chiedere altri finanziamenti. Ah, non no, può. Vabbè, lui è ricco di famiglia. Non finisce no, qui. No, è che c'è il problema che siamo sempre in Italia, quindi se io, adesso il signore ha citato la 3, cioè se io ho un debito con la 3 non pago la bolletta, perché anche questo è un mestiere tipico sì. dell'italiano, passo a Wind, passo a Vodafone, passo a TIM, nessuno va a vedere se tu hai dei debiti in precedenza. Ma poi a me hanno staccato la corrente, che non pagavo delle bollette in una seconda casa. Ma hanno staccato la corrente. Quante bollette non hai pagato? Ma una chiesto. Stupidaggine, 100 euro, ma perché era una casa terremotata, pensa un po'. Giorgio, buongiorno. Giorgio. Pronto? Lei collabora con un recupero crediti? No, io non collaboro con il recupero crediti. Io, sì, no, diciamo che io sto dietro al debito, nel senso che io sono separato ormai da 4 anni, però praticamente mi chiama, tu metto la cosa per pagare, vado in filiale a pagare e pago tranquillamente. Diciamo, non mi fido delle persone che mi chiedono contanti oppure assegno, però io pago direttamente in filiale. In filiale mi vedono e se vuole le mando la ricevuta, però cerco sempre di tenere passo a quello che riguarda il mio impegno di pagamento. Ho capito perché cosa dice il signore, perché in realtà ha anche ragione, perché diciamocela tutta, non tutte le società di recupero crediti sono serie. Quindi molte volte uno paga. Ok, molte volte è vero, il debitore paga e poi magari il suo pagamento va perduto. In questo caso il signore ci va con i soldoni in mano e vuole esatto, la ricevuta. Paga l'agenzia. Va bene, grazie Deborah Serrao. Grazie nella tua a te, Gianluca. Versione 2.0 di recuperatrice crediti, oggi hai dato un formidabile contributo alla mia trasmissione, se no non avrei saputo cosa dire. E ti ringrazio. A domani. Grazie a te. Ciao.